24, i gialli della storia. Venerdì 4 maggio è una data storica per la Gran Bretagna. Un governo conservatore con a capo la signora Thatcher guiderà. La signora Bandaranaike nello Sri Lanka, la signora Gandhi in India. Ma in Occidente non c'è mai stata una donna primo ministro. Si è assicurata un posto nella storia della Gran Bretagna la prima donna invitata a formare un governo. Il privilegio di una delle più famose residenze del mondo, al numero 10 di Downing Street. Vorrei solo dire che io prendo molto seriamente la fiducia riposta in me oggi dal popolo della Gran Bretagna. Per tutti è stata la Lady di Ferro, 11 anni di governo ininterrotto alla guida del Regno Unito, più di qualunque altro primo ministro inglese del XX secolo. Margaret Thatcher, classe 1925, ha fatto la storia ed è entrata nella storia con le sue riforme. Il suo decisionismo, la sua grinta, il suo coraggio ha sbaragliato critici e avversari, imponendo la sua volontà contro i sindacati, contro gli argentini che volevano riprendersi le Falkland, contro gli irlandesi del lira, contro la presenza dello Stato nell'economia e contro l'impero del male sovietico, contro l'Unione Monetaria Europea. Ma il suo regno, che sembrava assoluto, si conclude nel 90 dopo 3 mandati consecutivi. E la caduta è inaspettata. Il colpo fatale per la Thatcher viene ferrato dall'interno, dalle file dei suoi collaboratori di governo e colleghi di partito. Noi, qui a Mix 24, racconteremo questa storia, una storia di complotti e infedeltà, e lo faremo attraverso le voci dei suoi stessi ministri, come Kenneth Clark, Geoffrey Hume, Nigel Lawson e Peter Lilley. È stata una delle figure politiche più ammirate del XX secolo, ma anche una delle più odiate. C'è chi l'ha sempre considerata un nemico e non le ha mai perdonato il modo in cui ha spremuto la società inglese. L'hanno definita la Lady di Ferro. Ha modernizzato l'economia attraverso privatizzazioni e riforme radicali, il cui prezzo sulla società però è stato devastante. Nel giro di 4 anni, 3 milioni di persone hanno perso il lavoro. Margaret Thatcher ha anche promosso la chiusura di molte miniere improduttive e il licenziamento degli oltre 200.000 minatori che ci lavoravano. E quando gli operai hanno deciso di scioperare, ha colto l'occasione per colpire al cuore il potente sindacato nazionale dei minatori, arrivando quasi a dispiegare le forze armate per combattere quella che uno storico ha definito una guerra civile senza armi. Ma non ha mai arretrato, e alla fine i lavoratori sono stati costretti a tornare nelle miniere senza aver ottenuto nulla. La Thatcher non arretra neppure davanti ai 10 membri dell'IRA che fanno lo sciopero della fame per ottenere lo status di prigionieri politici e migliori condizioni di detenzione. Tra loro Bobby Sands, condannato a 14 anni per possesso di armi da fuoco, una figura decisiva nella storia inglese di fine secolo. Margaret Thatcher rifiuta di trattare e lascia morire i 10 giovani dopo 70 giorni di sciopero. La Thatcher mostra la stessa determinazione nella guerra delle isole Falkland. Dopo l'invasione delle truppe argentine, la Thatcher si riprende le Falkland a colpi di cannone. E le Falkland ancora commemorano il suo nome in ricordo di quel conflitto. Ogni anno, il 10 gennaio, in quelle isole, è festa nazionale. Bournemouth, ottobre 1990, si apre il congresso del Partito Conservatore. Margaret Thatcher, forte dei suoi successi, assapora il gusto della vittoria. Rieletta 3 volte, è in carica ormai da 11 anni. Nessun primo ministro è mai durato tanto nella storia d'Inghilterra. Alle prossime elezioni mancano ancora 18 mesi. Quando un giornalista le chiede se stia pensando di ritirarsi, la Thatcher risponde di non avere neanche lontanamente preso in considerazione l'ipotesi. I prossimi 10 anni, aggiunge, saranno i più belli. Un mese più tardi, l'Inghilterra ha un nuovo primo ministro. La Thatcher era sempre più intollerante verso chi non era d'accordo o le muoveva delle critiche. Era convinta che il Partito Conservatore non si sarebbe rivolto a nessun altro che a lei. Qualunque leader politico, dopo 10 anni al potere, raggiunge un punto in cui crede di essere infallibile. Era molto acida, molto dura, più simile a una direttrice di un collegio femminile che è un primo ministro. I ministri e i collaboratori più stretti della Thatcher dovrebbero essere i più fedeli, invece, come in una tragedia shakespeariana, sotto la Concordia covano intrighi, rancori e gelosie. C'era uno scontento generale. E negli ultimi 12-18 mesi ci fu un lento esodo. Uno dopo l'altro i ministri lasciavano il governo. La Thatcher avrebbe anche potuto superare quelle divisioni. Il problema fu la poll tax, una nuova imposta che risultò estremamente impopolare e, con tutta probabilità, imprudente. La poll tax è una tassa particolarmente iniqua che colpisce più duramente gli strati più poveri della società. Si tratta di un'imposta che fa pagare a tutti la stessa quota, indipendentemente dal reddito. Il Sunday Times parte all'attacco. Scrive del volto odioso di Margaret Thatcher, interessata solo ai privilegiati, e la definisce Attila, bollando come stupida la poll tax. Fu lei ad attirarsi la catastrofe. Era responsabile di una tassa impopolare che la metà dei suoi colleghi di governo non trovava giusta. Il paese intero è contro la Thatcher, ma lei sembra non capire la gravità della situazione. Il 31 marzo 1990, 300.000 persone sfilano a Trafalgar Square. Interi quartieri di Londra vengono devastati dai manifestanti, macchine date alle fiamme, negozi saccheggiati. Con oltre 400 feriti, sono gli incidenti più gravi che Londra abbia mai visto dal 1926. Il suo gradimento presso l'opinione pubblica, un tempo a livelli record, era sprofondato. E cosa più importante, molti parlamentari ritenevano che se la Thatcher fosse stata ancora il loro leader, i conservatori non avrebbero vinto le successive elezioni. I parlamentari cominciarono a pensare che c'era un'unica soluzione: cambiare leader e avere un nuovo primo ministro. Il primo colpo al potere della Lady di Ferro viene dal più insospettabile fra i suoi collaboratori, l'irremissimo Geoffrey Howe, prima ministro degli esteri e poi vice primo ministro. Geoffrey Howe è l'unico sopravvissuto del primo governo Thatcher e il ministro più duraturo del suo gabinetto. Ma durante l'ultima conferenza del partito, anche Howe manifesta di fronte all'Europa le sue divergenze con Margaret Thatcher. Io sono un tipo piuttosto resistente, duro, un terrier che va sempre verso l'osso, e capii che questo la irritava anziché persuaderla. Lo umiliava in continuazione. Era durissima con lui. Tutti noi membri del gabinetto non sapevamo più dove guardare. Era imbarazzante vederlo trattare in quella maniera. Due giorni più tardi Geoffrey disse che si sarebbe dimesso. Primo novembre 1990, Geoffrey Howe si reca al 10 di Downing Street e rassegna le dimissioni. Margaret Thatcher è stupita, apre la lettera davanti a lui. Dopo aver letto la prima pagina della mia lettera di dimissioni, mi disse: non vedo perché dovremmo dividerci. Allora le risposi: Margaret, vai avanti a leggere. E lei riprese a leggere. Alla fine disse: sì, ho capito, penso che non ci sia modo di riconciliarsi. Howe esce allo scoperto. Vuole rendere pubbliche davanti al Parlamento, il grande palcoscenico della politica inglese, le ragioni che l'hanno spinto a dimettersi. Contro il parere di Margaret Thatcher, che si è sempre opposta alla diretta televisiva delle sedute parlamentari, Howe ha da poco favorito una modifica della legge che autorizza l'introduzione delle telecamere e la diffusione dei dibattiti. È il primo colpo. Cesare, dunque, sarà pugnalato in pubblico. In 18 minuti, Geoffrey Howe scava la fossa a Margaret Thatcher. Howe accusa pubblicamente la Thatcher di aver sabotato il suo lavoro di ministro degli esteri. Poi rincara la dose e descrive come il primo ministro tratta i suoi ministri. E infatti non è la prima volta che un ministro di peso si dimette dal suo governo. Ma non siamo più negli anni gloriosi del thatcherismo. La Lady di Ferro si è fatta molti nemici anche all'interno del suo partito. Il discorso di Howe alla Camera dei Comuni ottiene un risultato al di là delle stesse intenzioni. Convince malcontenti a uscire allo scoperto. Nel piano inferiore del Museo delle Cere di Madame Tussaud, la statua di Geoffrey Howe va ad unirsi a quelle di quanti si sono già dimessi da un governo Thatcher. Nigel Lawson, il cancelliere dello scacchiere, Norman Tebbit, una figura chiave nella politica del lavoro, e Michael Heseltine, segretario di Stato per la difesa. Proprio Heseltine rispolvera un processo interno al partito che risale al 1975, ma che non è mai stato utilizzato. Una maggioranza parlamentare permetterebbe la deposizione e la sostituzione di un primo ministro in carica. Due parlamentari conservatori, andando contro il procedimento solito, devono chiedere una nuova elezione per la leadership del partito e presentare un candidato alternativo alla Thatcher, evitando che Maggie si assicuri la maggioranza. A condurre la campagna è Michael Mates, braccio destro di Heseltine. Erano gli altri a venire da noi. Non eravamo noi ad andare a cercarli. Più di un centinaio di persone Vennero da me o da Michael a dire: noi non sopporteremo tutto questo ancora a lungo. Siamo dalla parte di Michael. Vogliamo che lui vada all'attacco. Margaret Thatcher, però, si rifiuta di considerare Hazeltine un avversario temibile. La campagna degli uomini della Thatcher fu condotta davvero male. La sua squadra fu un disastro. Continuava a ripeterle che avrebbero ottenuto una maggioranza dell'80%. Mentre Mates e Hazeltine conducono una campagna elettorale senza tregua, Margaret Thatcher rifiuta di modificare la propria agenda. Il 16 novembre si reca in Irlanda del Nord per far visita a una base militare, ma deve fare i conti con un evento inatteso. La Thatcher ha scelto per le elezioni del partito la data del 20 novembre. Vuole lasciare poco tempo a Hazeltine per organizzare la sua campagna. Ma alla vigilia del voto si apre una conferenza internazionale a Versailles per celebrare la fine simbolica della Guerra Fredda. Andare a Parigi o restare a Londra, una scelta che divide i collaboratori della Lady di Ferro. Qualcuno fiuta il pericolo e la scongiura di rimanere, altri invece fanno notare che rinunciare alla conferenza di Parigi la indebolirebbe ancora di più. A Parigi Margaret Thatcher fatica a trovare orecchie amiche. Nessuno sembra interessato al suo destino e anche questo forse ha un peso sulle elezioni che si stanno per svolgere a Londra. L'amico Mikhail Gorbachev, un altro i cui giorni sono contati, sta per ottenere degli importanti aiuti finanziari per l'ex Unione Sovietica che è sull'orlo della bancarotta. Il presidente Bush ha deciso di attaccare l'Iraq in Kuwait. Di lì a poche ore darà l'ordine di iniziare la prima guerra del Golfo. Quanto a François Mitterrand, proprio quella mattina ha saputo che dopo un infinito iter giudiziario il suo amico René Bosquet sta per essere accusato di crimini contro l'umanità. Parigi. Margaret Thatcher riceve un messaggio dalla figlia Carol che la sollecita a tornare al più presto. Stanno pianificando la tua esecuzione, dice. A Westminster, alle 11 di mattina, i parlamentari conservatori iniziano a votare. Ma i risultati arriveranno solo in tarda serata. L'atmosfera era febbrile. La stanza era stracolma, con tutti i membri conservatori del Parlamento, più di 350 o giù di lì, finché a un certo punto fu annunciato il risultato. Nel primo ballottaggio la Thatcher prende 204 voti, il suo avversario 152. La Thatcher ha quindi la maggioranza, ma il regolamento del Partito Conservatore prevede che per vincere il primo turno occorre un margine del 15% dei voti. Alla Thatcher sono mancati solo 4 voti, 4 voti che la costringono a un umiliante secondo turno di votazione. Ricevettero la notizia in uno dei saloni dell'ambasciata d'Inghilterra a Parigi. Rimase molto scossa. Quel risultato era l'opposto di quello che tutti le avevano pronosticato con certezza, una netta maggioranza, e invece non fu così. Per lei fu uno shock, anche perché uno dei suoi segretari le aveva assicurato una facile vittoria. Erano preparati a un risultato sul filo di lana, ma nessuno si aspettava di perdere per 4 voti. Dei 4 voti che sono mancati a Margaret Thatcher e che avrebbero ribaltato il risultato della votazione, 2 sono quelli di Howe e Lawson, i due ministri dimissionari. Nel frattempo, a Londra, nella stessa notte, si tiene un incontro segreto. Sarà il detonatore che scatenerà il precipitare degli eventi. Alla riunione sono presenti alcuni giovani esponenti del Partito Conservatore e alcuni ministri, tra cui Malcolm Rifkin. Questo avvenne la sera del primo voto e in maniera del tutto non pianificata. Non c'erano soltanto giovani membri dei Tories, ma anche vari ministri dell'esecutivo. La riunione si tenne dopo il voto delle 10 alla Camera dei Comuni. Discutevamo in maniera molto spontanea delle nostre reazioni alla prima votazione e se lei avesse dovuto continuare. Non si trattava di alcun gruppo formale, né di conclusioni formali. Anche se era chiaro a tutti, dai commenti dei presenti, molti dei quali erano stati forti sostenitori di Margaret Thatcher, che ormai era finita e che lei si sarebbe dovuta dimettere. Mercoledì 21 novembre 1990. Al mattino Margaret Thatcher torna a Londra. Per la seconda votazione prevista dal regolamento del partito cambia totalmente squadra. Vuole un sondaggio tra i parlamentari sulle intenzioni di voto. Chiede che siano rese note le ragioni del suo isolamento all'interno del gabinetto. Licenzia il direttore della campagna e la affida a John Wakeham. Siamo arrivati al gran finale, siamo alla resa dei conti. Per questo secondo turno la Thatcher ha bisogno dell'appoggio incondizionato dei suoi ministri. È il momento di scoprire le carte e scegliere. Adesso capirà chi è con lei e chi contro di lei. Avevamo stabilito che avrebbe parlato ai colleghi dopo averli riuniti tutti. Poi però decise di incontrarli uno ad uno e quello per me fu un errore fatale. E così per il resto del pomeriggio e la prima parte della serata ci fu una sfilata di ministri, entravano, uscivano e le sottoponevano la loro opinione. Ma anche qui ci fu un altro errore, perché la prima persona che incontrò fu proprio il suo più grande oppositore, Ken Clark. Fu un incontro molto duro, molto determinato da entrambe le parti. Lei mi disse che ero un disfattista e che avrei dovuto smetterla. Io le dissi che aveva perso e che se ne sarebbe dovuta andare. Un gran numero di persone che aveva votato per lei al primo turno avrebbe fatto ciò che anch'io intendevo fare se lei avesse insistito a riproporre la sua candidatura: votarle contro. Due ministri avevano minacciato di dimettersi se lei avesse preso parte al secondo voto. Quando lo seppi, rimasi sconvolto. A quel punto, credo che qualcuno, per la prima volta, le abbia detto che era giunta la fine del suo regno e che si sarebbe dovuta fare da parte. Molta gente aveva cominciato a scendere dal carro e questo la sconvolse. Se lei li avesse incontrati tutti e li avesse guardati dritto negli occhi dicendo chi è con me e chi è contro di me, sarebbero stati tutti dalla sua parte. Ma allora chi ha tradito Margaret Thatcher? Chi ha deciso di porre fine a un'epoca che ha segnato la storia dell'Inghilterra? Alla fine colpevoli sono tanti, forse tutti. Ma la fine della Thatcher è l'umiliazione di una donna straordinaria la cui politica nel bene e nel male ha cambiato un paese intero. Margaret Thatcher entra nel suo ufficio da sola. Le rimangono poche ore per decidere. A mezzogiorno dell'indomani scade il tempo per presentare le candidature. Uno ad uno i suoi ministri vanno nel suo ufficio per giurarle fedeltà, ma anche per consigliarle di dimettersi ed evitare un'umiliante sconfitta. Tutti le esprimono il proprio dispiacere per come sono andate le cose, ma lei non si fa prendere in giro. Le parole usate dai ministri sono le stesse. Dopotutto sono giorni che non parlano d'altro. Mi ricordo che mi disse: ora non ho più neppure un amico nel mio governo. La vidi poco prima che facesse ritorno a Downing Street. Mi apparve molto stanca e soprattutto molto depressa. È proprio una tragedia shakespeariana, quando il re, il monarca, comprende di non avere più il sostegno e che la partita è finita. Margaret Thatcher ha già preso la sua decisione, ma lascia trascorrere ancora la notte. Il giornalista Peter Jenkins scriverà più tardi. Non aveva nemici all'esterno. I nemici erano tutti tra le sue fila e passavano il loro tempo a progettare e complottare. Di prima mattina, Kenneth Baker arriva al 10 di Downing Street, dove si riunirà il Consiglio dei Ministri. Alle 5 del mattino ricevetti la telefonata che mi annunciò che si sarebbe dimessa. A Downing Street questa è la prima apparizione del primo ministro rimosso questa mattina dal suo stesso partito. La signora Thatcher ha lasciato Downing Street alle 12.30 per incontrare la regina e riferirle, ma la folla non è unanime. E così è veramente finita. 11 anni di thatcherismo si concludono il 28 novembre del 90, ma per Margaret Thatcher c'è ancora un'occasione di riscatto, il discorso d'addio alla Camera dei Comuni. Tutti si aspettano una Thatcher umiliata e dimessa, ma ancora una volta la Lady di Ferro sorprende tutti. Signor Presidente, questa mattina ho presieduto una riunione dell'esecutivo. Mi preme ricordare a tutti che mi aspetto di essere ancora qui martedì pomeriggio e forse anche giovedì pomeriggio. E spero che la Camera quindi sia gentile come lo è stata oggi. Fu uno dei suoi discorsi più memorabili, tipico di Margaret. Pensavo che sarebbe stata un'occasione difficile, imbarazzante. Tutti sapevano che era l'addio, che sarebbe stato l'ultimo discorso. Anche i suoi più fieri oppositori ascoltavano con grande partecipazione. Fu un momento di intensa emozione. La Camera era stracolma, si susseguivano pensieri di ogni tipo. Era la fine di un'era. C'erano bambini che si chiedevano: ma in Inghilterra un uomo può diventare primo ministro? Un'intera generazione aveva visto solo lei a Downing Street. Qualcuno si chiedeva: com'è possibile che al culmine della carriera una persona così brillante, eloquente, com'è possibile che si dimetta? La Thatcher vide lo sgomento negli occhi dei suoi oppositori. Sembravano pensare, oddio, è risorta e riuscirà a cavarsela anche questa volta. E nel bel mezzo del discorso le disse, comincia a piacermi. Comincia a piacermi, comincia a piacermi. Beh, l'onorevole signore qui presente è un buon difensore, può parlare quanto vuole, ma penso che lui non creda una sola parola di quello che dice. Fu il capolavoro definitivo. Avrebbe dovuto avere le musiche di Verdi e Maria Callas avrebbe dovuto impersonare il primo ministro. Fu straordinario. Ovviamente aveva il controllo della Camera. Sono certo che a quel punto molti dei miei colleghi avranno provato un grande imbarazzo e si saranno chiesti ma cosa abbiamo fatto. Margaret Thatcher offre un accordo e ordina un compromesso che il partito accetta. Si dimetterà, ma il potere non deve passare nelle mani di Michael Heseltine. La Thatcher apre così la strada a John Major, uno dei pochi ad esserle rimasto fedele e che può sostituirla come primo ministro. Non c'è dubbio, si sentì tradita dal suo stesso partito. Fu chiaro anche da quello che disse. Non sono stata sconfitta nella Camera dei Comuni sul voto di fiducia. Non sono neanche stata sconfitta dal popolo di questo paese in un'elezione. Sono stata pugnalata alle spalle dai miei. Margaret Thatcher scompare. Sei mesi dopo aver lasciato Downing Street, riemerge dal silenzio che si è imposta per rilasciare un'intervista televisiva. Alla fine lei è giunta a quella decisione dopo aver visto uno ad uno tutti i membri del suo esecutivo. Quindi i suoi ministri si sarebbero dimessi se lei fosse andata avanti. E a quel punto lei deve aver capito che non avrebbe potuto continuare. Non c'è stato nessuno che mi abbia detto, nessuno. Nessuno mi ha detto che si sarebbe dimesso se io fossi rimasta in carica. Nessuno. Posso chiederle innanzitutto di ricordare se quella è stata la riunione di gabinetto più difficile? Ma certo che lo fu. Lo fu senza dubbio. Non si prendono decisioni di quel tipo senza sofferenza, senza che il cuore si spezzi. Ci incontrammo per l'ultima volta alle elezioni del 2005 e pensai che avrei fatto meglio a farmi riconoscere da uno dei suoi, perché sapevo che avrebbe avuto difficoltà a ricordarsi. Le dissero, questo è John Sargent. E io capii che non sapeva con esattezza chi fossi. Fu un momento molto triste. Una serie di infarti le avevano arrecato danni al cervello. A volte ricordava, altre volte non ricordava nulla. L'ultima volta che venne fu per scoprire un'orribile statua a lei dedicata. Tra gli sguardi attoniti dei suoi ex colleghi, capimmo che avrebbe preso la parola. Ci guardammo stupiti chiedendoci chi è che ha il coraggio di impedirle di prendere il microfono. Ma ormai la frittata era fatta. Alla fine andò tutto bene. Sono molto felice di trovarmi qui per questa grande occasione. La Camera mi ha davvero onorato dedicandomi questa statua. Certo, io avrei preferito il ferro, ma anche il bronzo può andare. Margaret Thatcher muore a Londra colpita da un ictus l'8 aprile del 2013 a 87 anni. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.